Oggi abbiamo approvato in giunta, su proposta della vice sindaca, un piano dedicato alla notte. L'obiettivo fondamentale è qualificare i servizi della notte a Bologna. È un obiettivo che ci siamo dati in questo mandato, sarà un progetto che porteremo avanti negli anni. Significa qualificare il lavoro, dare migliori servizi del trasporto pubblico. Abbiamo detto, ad esempio, delle nuove linee di autobus per il weekend, lavorare per migliorare i servizi taxi, lavorare con tutto il settore culturale dei locali notturni perché ci sia un'offerta più sostenibile, più sicura e più accogliente. Noi lavoriamo quotidianamente per affrontare tutti i conflitti e la convivenza. Dobbiamo uscire da considerare la notte soltanto per la zona universitaria o singole iniziative. A Bologna si vive e si lavora di notte, dobbiamo rendere questa notte più inclusiva e di conseguenza più attenta ai diritti di tutti, a chi ci lavora, chi la utilizza, chi la attraversa, e quindi è molto importante considerare un piano complessivo.